Avevo più groove e personalità una volta, senza bere Malibu per sentirmi me stesso sulla pista. Stavo le ore con la testa sott'acqua una volta, per conservare il silenzio del mare nella testa. Hola, hola, e non ricordo più. Hola, hola, se in quella notte c'eri tu. E tu che mi tiravi su con dei film stupidi, senza dire una parola. Non mi capirai mai, né domani né ora. E tu preferivi la TV che starmi vicino. E come fai a vivere se attorno al cuore hai il muro di Berlino? Facevo delle pause lunghe una volta, ma ridere e ascoltarti per ore non mi basta. Ballavi latinoamericano una volta, senza tenere il tempo come quando c'è casino ad una festa. E c'eri sempre tu che mi tiravi su con dei film stupidi, senza dire una parola. Non mi capirai mai, né domani né ora. E tu preferivi la TV che starmi vicino. E come fai a vivere se attorno al cuore hai il muro di Berlino? A cosa è servito studiare spagnolo se l'unica cosa che so dire è hola, hola, hola.